Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Siamo in diretta dallo SMAU e quindi dalla 48esima edizione del Salone dell'Informatica, che tra l'altro chiuderà domani. 50.000 visitatori attesi, 600 espositori, tra cui tutti i big del mondo dell'informatica, quindi Microsoft, IBM, SAP, Apple, Oracle, Intel, Cisco, Telecom, e anche 100 giovani start-up presenti, come si chiamano in gergo, quindi 100 società appena nate. Parleremo anche, chiaramente sarà l'occasione per parlare di information technology, ma non solo, anche di energie rinnovabili, visto che nel disegno di legge, dalle bozze che sono uscite, ci sono delle norme che riguardano proprio gli incentivi alle rinnovabili, fotovoltaico ed eolico in particolar modo, un settore che, al di là dei finanziamenti che ha ricevuto, ha generato qualcosa come 40 miliardi di investimenti. Il fotovoltaico 100.000 occupati, di cui 20.000 occupati diretti. E quindi questi temi di approfondimento. La cronaca, però, prima di tutto, come sempre, peggiora la borsa, meno 3,18% in questo momento Milano, con un calo pesante a questo punto su Unicredit e Intesa San Paolo. Va detto che molto avevano recuperato nei giorni scorsi, però meno 9,80% Unicredit, meno 9,60% Intesa San Paolo, rispettivamente a 96 centesimi di euro Unicredit e a 1,33 euro. Euro 33 Intesa San Paolo. Male le banche, adesso capiremo perché. Monte dei Paschi meno 6,30, UbiBanca meno 5,90, Banco Popolare meno 5,90 anch'esso, Popolare di Milano meno 4,40%, Mediolanum meno 4,90%. Tra i non bancari citiamo anche Prismian, pesante il calo, meno 7,1%. Chi si salva? Saipem più 1,30, Ansaldo più 0,80, Eni più 0,70%. E stranamente oggi in controtendenza la Banca Popolare dell'Emilia Romagna più 0,32%. Che cosa è successo? Beh, diciamo che l'incontro di ieri franco-tedesco con anche altri rappresentanti dell'Europa in occasione del passaggio di consegne tra Jean-Claude Trichet e Mario Draghi non ha portato evidentemente i risultati attesi sul mercato. E lo dico non solo per l'andamento di borsa, ma anche e soprattutto per come stanno andando i nostri spread, o il nostro spread. È tornato a un livello vicino al record, ahimè 396 punti, la differenza tra quanto costa a noi trovare finanziatori per il debito e quanto costa la Germania, che è il paese più affidabile. Vuol dire che i nostri BTP a 10 anni rendono il 3,96%, non in più, ma di differenza rispetto a un BTP equivalente tedesco a 10 anni, tant'è che il rendimento dei BTP in questo momento viaggia intorno al 6%, e che vuol dire che, per far capire a tutti, la stessa obbligazione tedesca invece rende semplicemente il 2%, poco più, il 2,04%, e quindi alla Germania costa 4 punti percentuali in meno trovare finanziatori per il proprio debito. È chiaro che questi sono valori di mercato, ma se noi dovessimo trovare finanziatori per il debito in scadenza a questi tassi, vuol dire che pagheremo 4 punti percentuali in più rispetto alla Germania, 2 punti percentuali rispetto a maggio, ogni punto percentuale del PIL, ricordo che sono 14-15 miliardi di euro. Questo se dovessimo rifinanziare tutto il debito a questi tassi. Per fortuna no, per fortuna il debito si rifinanzia con diverse tranche, diverse scadenze, quindi non tutto va pagato così caro. Non tutti i finanziatori vanno pagati così cari. Certo è che i 396 punti sono ampiamente superiori a quelli precedenti alla manovra finanziaria, segno che le tensioni sui mercati sono tutt'altro che scomparse, anzi, e segno che il piano di salvataggio europeo, il fondo europeo di salvataggio che Francia e Germania vorrebbero portare, addirittura c'è chi ha scritto 2.000 miliardi di dollari, non viene visto ancora come affidabile e operativo dal mercato. Ma vi arriveremo nella seconda ora del programma. Volete anche sapere delle altre borse europee, poi ve le daremo come sempre gli indici delle altre borse europee. Voglio ricordare il numero per i vostri sms, che è 349-238-6666. Anche la Banca d'Italia, da quello che ha detto oggi il Presidente del Consiglio, si è capito, anche se lui ha chiesto riservatezza, che il nome dovrebbe esserci, che la lettera potrebbe essere mandata oggi, vediamo cosa capiterà dopo il Consiglio, ma questo pesa poco, devo dire, oggi sull'Italia, perché le tensioni sono proprio sul debito, non su altri elementi. 349-238-6666 per gli sms. Io direi di partire subito con le notizie in breve e poi i primi temi di approfondimento. Allora, andiamo da subito con le notizie in breve. Chiaramente non sono le 16 ma le 17 e 14 minuti in questo momento. Diciamo le notizie in breve: l'oro è in leggero calo, 1614, il petrolio è poco mosso anche dopo la cattura di Gheddafi, lo ricordava il nostro speciale. Il petrolio non ha avuto grandi oscillazioni, è fermo a 86,14 dollari al barile. La benzina però purtroppo continua a salire ed è a un passo dal record. Nei distributori IP viene venduta a 1,641 euro al litro. Ricordo che il record storico nella benzina è a 1,646 euro. Continuiamo a non capire perché con un petrolio a 86 dollari al barile la benzina vada a record, però veramente è una fatica di Sisifo, tanto non ne usciamo. Vedo che molti vogliono sapere che cosa è successo dopo il vertice ieri sera tra Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Christine Lagarde, Trichet, Mario Draghi. Beh, insomma, era una riunione convocata per cercare di appianare le divergenze, di trovare un accordo. In realtà sembra che queste divergenze non si siano appianate, siano rimaste, proprio sull'operatività del Fondo Salva Stati e sull'ammontare del Fondo Salva Stati. Non a caso appunto oggi tutti gli spread e i rendimenti sono saliti anche quelli francesi a 120 punti, ieri avevano fatto un record a 100 punti, oggi a 120, mai successo in Francia che un'obbligazione francese rendesse l'1,2% di differenza in più rispetto a un'obbligazione tedesca. La Banca Centrale Europea nel frattempo sta comprando debito italiano, continua a acquistare titoli di Stato italiani. In Grecia invece oggi i feriti sono 40 negli scontri, gli scontri di ieri ma anche gli scontri di oggi portano a un numero di feriti anche maggiore. Praticamente la sesta tranche di aiuti, quella da 8 miliardi, deve essere sborsata al più presto, e questa è la raccomandazione che è arrivata dalla Troica, non è la richiesta greca, cioè dall'Unione Europea, dal Fondo Monetario, dalla Banca Centrale Europea. E poi però c'è la stessa Troica, in una bozza che le agenzie hanno anticipato, sottolinea come il peggioramento dell'economia greca peggiori gli sforzi. E io faccio notare che già ieri affrontavamo il tema di come, se tu completamente strangoli l'economia greca aumentando l'IVA di 13 punti, riducendo i salari del pubblico impiego del 60% e via così, è difficile che poi l'economia greca possa crescere. Volete sapere l'ultimo prezzo di Intesa? Io vi do quello che vedo su Radio Core, 1,22 in questo momento. Intesa San Paolo, Unicredito è a 85 centesimi di euro, Monte dei Paschi a 35 centesimi di euro, Banco Popolare a 1,15 euro. E comunque, siccome la situazione non sta migliorando, anzi sta peggiorando sul fronte delle tensioni europee sui debiti, in primo luogo quello italiano, tant'è che oggi di Italia ha parlato il presidente di Goldman Sachs Asset Management, Jim O'Neill, che ha detto in un'intervista all'emittente americana CNBC: ormai tutto ruota attorno all'Italia, cioè il problema, è brutto dirlo, ma il problema in questo momento non è la Grecia, anche per le dimensioni che ha, la Grecia ha un problema di affidabilità sulle riforme promesse e di tensioni sociali. Il problema, per capire se si andrà verso una situazione critica nell'attacco ai debiti sovrani oppure tutto sommato si andrà in una situazione che si risolverà, il problema e la variabile si chiama Italia, lo dicono ormai tutti. E l'appello l'ha rivolto oggi anche il presidente della Commissione Europea José Barroso ai leader europei: trovate un compromesso e trovatelo nel minor tempo possibile. I believe we cannot solve this crisis without decisive and immediate action on Greece, on enhancing the Eurozone's crisis backstops. Penso che non si possa risolvere la crisi senza un'azione decisa e immediata riguardo la Grecia, senza migliorare la rete di protezione in Europa, senza rafforzare il sistema bancario e senza una governance economica più solida. Tutti questi elementi sono importanti e entro domenica dovrebbero essere prese decisioni politiche. Un aspetto sul quale si poggia tutta la credibilità riguarda la necessità di rafforzare le difese dai rischi di contagio della crisi del debito. Noi abbiamo proposto di consentire all'IFSF di usare la leva finanziaria e io spero che su questo vi sarà un accordo domenica. A questo proposito sono incoraggiato dal lavoro che sta progredendo. Penso che al vertice sarà possibile un risultato molto positivo, a condizione che vi sia la volontà politica e il senso del compromesso da parte di tutti i partecipanti. L'Europa ha bisogno di questo sforzo di compromesso. Siamo in una situazione in cui questo compromesso può essere raggiunto su un'Europa più ambiziosa e sono fiducioso che lo faremo. Around a more ambitious Europe. I'm confident you'll do it. Così appunto il presidente della Commissione Europea José Barroso. Alcuni ci chiedono riduzione dei salari del 60% in Grecia. Fa parte del progetto, del piano di tagli in Grecia, 30.000 dipendenti almeno coinvolti, riduzione dello stipendio fino al 60% complessivamente tra blocco delle tredicesime e quant'altro. Ancora su Banca d'Italia, volete sapere, non c'è nulla di nuovo. Il Presidente del Consiglio, ripeto, Berlusconi, ha detto stiamo provvedendo, qualcuno gli ha chiesto Bini Smaghi, Berlusconi ha solo detto devo essere riservato, non ha detto né sì né no. Ci sono due notizie internazionali però che vanno a in qualche modo a incrementare le tensioni di oggi. Una riguarda il PIL tedesco. Nel 2012 è stato rivisto al ribasso, la Germania non crescerà più dell'1% l'anno prossimo, questo secondo le stime di Berlino e anche del ministro dell'economia tedesco Rösler, mentre l'altra notizia riguarda, ed è un po' più preoccupante, riguarda indiscrezioni pubblicate in questo momento che arrivano dalla Germania, che Berlino potrebbe chiedere un rinvio del vertice del Consiglio Europeo di domenica, quello tra i capi di Stato e di Governo. Beh, è chiaro che se così fosse si capirebbe anche perché gli spread stanno salendo e le tensioni sui mercati non accennano a fermarsi, anzi dopo questa notizia il mercato peggiora, meno 3,55% Milano, meno 11% Unicredit a 85 centesimi e mezzo, meno 9,60 Intesa a 1,20 euro e meno 9,50 Monte dei Paschi. Ed ecco che lo spread ha toccato 400 punti, Quindi un BTP a 10 anni italiano rende il 4%, non in più, rende la differenza del 4% quanto rendimento. Insomma, un BTP a 10 anni tedesco rende il 2%, il nostro rende il 6%. Spesso volete sapere come erano i nostri spread prima della... di giugno, dell'estate. Beh, erano molto bassi. Io ricordo banalmente che ancora a inizio luglio, fine giugno, noi viaggiavamo intorno ai 200 punti di spread. A maggio eravamo a 160-170 punti di spread e nettamente sotto la Spagna. Avevamo almeno 50-60 punti di differenza con la Spagna. Poi, tra le elezioni amministrative, referendum, messa in discussione del ministro Tremonti, instabilità del governo, si arriva rapidamente il 12 luglio a uno spread quasi simile con quello spagnolo, e poi da luglio in poi è tutto un salire, si va a 300 punti e poi a 320 punti e poi fino ai 400 e passa punti di agosto e settembre, e oggi siamo di nuovo a 400 punti. Beh, parliamo per un attimo di tecnologie, di Smao, così respiriamo sul tema spread e soprattutto anche accordo europeo. Certo che questa notizia che arriva dalla Germania non creerà maggiore calma sui mercati. 349-238-6666 per i vostri sms. E allora, visto che siamo allo Smao, parliamo anche di tecnologie. Eh sì, perché quest'anno il salone è focalizzato proprio sulle soluzioni tecnologiche per le aziende, quindi è particolarmente concentrato sull'attività corporate, anche se non solo. Mi fate notare al 349-238-6666 che non vi ho dato gli indici stranieri, avete ragione, Parigi perde il 2,20%, Francoforte perde il 2,40%. La Spagna perde il 2,80%, così li diamo anche tutti. L'America è negativa, ma di poco, con meno 1,16%, e l'S&P 500 meno 0,60%. Dicevo, focalizzato il salone Smao sulle soluzioni tecnologiche. In particolare emerge da uno studio presentato proprio in occasione dello Smao dalla School of Management del Politecnico di Milano che l'innovazione digitale nelle aziende, nella pubblica amministrazione, vale 40 miliardi di euro. E poi un dato interessante, forse in controtendenza e sicuramente non atteso: nel 2010 il giro d'affari del mercato digitale italiano è cresciuto a 14 miliardi di euro, un incremento dell'11% quest'anno, rispetto all'anno scorso, rispetto al 2010. Pensate che il solo commercio elettronico vale 7 miliardi e mezzo, e questo nonostante l'Italia sia indietro, molto indietro, nella banda larga. Il governo ha appena eliminato, da quello che abbiamo capito, i fondi per la banda larga, e praticamente noi abbiamo collegati in banda larga il 50% della popolazione, siamo a un 20% in meno rispetto alla media europea. Professor Umberto Bertelè, che è docente di strategia di impresa del Politecnico di Milano e che ha presentato anche questo rapporto allo Smao, buonasera. Buonasera. Allora, devo dire, bene, è molto buono il dato del più 11% del mercato digitale italiano, nonostante l'Italia, oserei dire, cioè nonostante il digital divide, come lo chiamate voi che studiate, cioè la differenza tra chi è collegato in maniera veloce, con la banda larga o quant'altro, e chi invece usa ancora delle volte il doppino o sistemi assolutamente arcaici. Mi ha fatto impressione una cosa, professor Bertelè, vedere che, lo ha fornito il dato la Telecom Italia, che solo il 12% delle imprese italiane sotto i 10 dipendenti, che ricordiamo essere il 95% delle imprese, ha un sito. Non la sorprende questo? È un paese, questo, con delle grandissime differenze, con delle grandi eccellenze, con dei grandi buchi, sia nel mondo privato che nel mondo pubblico, quello che ho sempre avuto occasione di constatare. Quindi stupisce talora perché si fanno cose molto buone e tal'altra comunque ci sono problemi di una serie di attività che dovrebbero essere vitalizzate o che stanno vitalizzandosi piano piano con il passaggio generazionale dalle vecchie generazioni alle nuove. Prego. No, sono a sua disposizione. No, ecco, su questo però dal vostro rapporto emerge una cosa abbastanza chiara, e cioè che il settore, nonostante tutto, tiene e cresce. 7 miliardi e mezzo di commercio elettronico è una mezza manovra finanziaria, professore. Ci sono anche in Italia delle esperienze interessanti di imprese che stanno crescendo, diventando leader in questo settore a livello mondiale. Faccio un esempio: se prendo un'impresa come Yux, che è un'impresa relativamente giovane, nata una decina d'anni fa, ha accoppiato il commercio elettronico e appunto la sua capacità in questo ambito, sia informatico che logistico, al settore della grande moda. E sta avendo un notevole successo, è partito a averlo in Italia e adesso ha un peso non piccolissimo sul mercato statunitense, sta entrando sul mercato cinese e sta soprattutto allargando il suo servizio a brand non solo italiani ma anche a brand internazionali. Un'ultima domanda, visto che lei ha presentato poi il convegno più importante qui allo SMAU, la cosa che l'ha più impressionato positivo di questa edizione e delle aziende italiane, al di là dei colossi, adesso sentiremo anche alcune dichiarazioni dei colossi, è quella invece in cui siamo ancora indietro, non c'è niente da fare. Guardi, io credo che ci sia stata una pressione piuttosto positiva nell'ascoltare le esperienze dei territori. In particolare quest'anno, come dicevo all'inizio, è stata dedicata l'attenzione alle regioni e al ruolo che queste regioni possono giocare. E si vede che esiste una vitalità notevole in un settore, quello della pubblica amministrazione, dove appunto, come abbiamo raccontato nelle nostre cose, a nostro avviso esisterebbero delle potenzialità di miglioramento molto molto forti, potenzialità ovviamente non conseguibili in maniera immediata perché richiedono di ristrutturare il sistema e richiedono di superare una serie di ostacoli, di resistenza che tutti noi conosciamo, ma che numericamente possono essere molto molto rilevanti. Però anche in questo campo noi vediamo che accanto a situazioni assolutamente deficitarie troviamo delle esperienze di punta, troviamo delle regioni o delle parti di regioni eccetera dove c'è voglia di sperimentare le cose nuove, e questo avviene al nord, ma ci sono anche degli esempi interessanti al sud. Su questo, quindi lei ci sta dicendo, per concludere, che si sono più mosse le regioni o comunque i soggetti locali dello Stato, che è alle prese appunto con riduzione della spesa pubblica e anche purtroppo dei trasferimenti per la banda larga? Ma io credo, cioè la nostra valutazione che veniva fatta su quel 40 miliardi di possibilità che ci sarebbero di messa a punto del sistema, diciamo che metà sono costi minori della pubblica amministrazione e metà sarebbero costi minori delle imprese, nel senso che tutti noi sappiamo come il costo della pesantezza della pubblica amministrazione sulle imprese sia molto significativo e molto impattante. Nell'ambito sia nell'ambito diretto per quanto riguarda il miglioramento dei costi della pubblica amministrazione, sia in quello indiretto, sicuramente si stanno muovendo bene le regioni, però gli enti locali sono quelli che hanno le performance di partenza peggiori. Quindi c'è molto più da fare, molto più da operare in questi settori che in quelli centrali dove pur c'è da operare. E Quindi è molto positivo, a mio avviso, che si stiano muovendo questi ambiti, e questo però dovrebbe avvenire non solo a livello delle regioni, ma avvenire per quello che riguarda le province, a livello delle province, a livello comunale, eccetera. Esperienze ce ne sono, l'importante è che queste esperienze si diffondano e che ci sia, io credo, una fortissima volontà, che purtroppo è difficile da raggiungere in questo paese, di voler far meglio. Le possibilità ci sono. Sì, vedo anche alcuni ascoltatori che scrivono, insomma, in provincia di Verona si lavora con una DSL Telecom a 0,3 megabyte, cioè niente come potenza, se ho ben capito, e poi invece in realtà si parla di wifi banda larga, ma ancora ci sono intere parti del paese, anche nel ricchissimo nord-est, assolutamente, dove praticamente diventa impossibile qualunque forma di business con internet, se non avere un sito che uno guarda e finisce lì. Professor Bertolè, grazie. Quando dicevo un paese a macchie di leopardo, c'è anche in quello che riguarda la distribuzione. A macchie dovunque. Sì, non è un paese nord-sud in questo caso, purtroppo, è a macchie in tutta la penisola. Grazie a Umberto Bertolè in collegamento con noi. Strategia di impresa Politecnico di Milano. Vedo un messaggio. No, non sono distratto, è che siamo in uno studio con una forte eco e abbiamo un po' di scarto nel collegamento con gli studi centrali di Milano, quindi sentite un po' di differenza solo per questo motivo. Meteo, pubblicità e poi la borsa che ha chiuso, ahimè, sui minimi, e quindi meno 3,80% Milano, con Unicredit meno 12%, Monte dei Paschi meno 11,20%, Intesa San Paolo meno 9,81%. :16:41, andiamo subito a commentare la borsa, poi gli altri temi, quindi di fonti rinnovabili di energia e di nuovo le tensioni molto focati. Adesso vedo che alcuni scrivono: siamo di nuovo vicini alla catastrofe. Un attimo, la borsa è cresciuta nell'ultima settimana e alcuni titoli hanno recuperato rispetto ai minimi toccati il 30%, 40%, 50%. Ieri la borsa andava bene, meno 3,80% oggi, un calo molto pesante. Stiamo a vedere, perché arrivasse una comunicazione da Berlino, da Parigi, probabilmente la situazione domani sarebbe diversa. Mi sembra di leggere sulle agenzie, anzi adesso ne ho conferma, che invece da Berlino le fonti ufficiali confermano che l'Unione Europea e Berlino confermano che il vertice ci sarà domenica, quindi il Consiglio Europeo dei Capi di Stato e di Governo. E quindi stiamo con i nervi calmi. Certo, il calo è pesante, meno 3,80%, Unicredit meno 12%, Monte dei Paschi meno 11,20%, Intesa San Paolo meno 9,80%, Banco Popolare meno 7%, Ubibanca meno 7%, Prismian meno 7,60%, Mediolanum meno 6,60%, Azimut meno 4,20%, come Finmeccanica. Per inciso, alcuni di voi vogliono sapere se parleremo di quanto hanno scoperto alcuni giornali, cioè che il taglio, o meglio il contributo di solidarietà per alcuni redditi, non vale per i ministri e i sottosegretari. Nella finanziaria ricorderete che tutti i dipendenti, anche i dirigenti delle amministrazioni pubbliche, se hanno redditi superiori a 90.000 euro lordi annui, li vedono ridotti nella parte superiore a 90.000 euro del 5% fino a 150.000 euro e del 10% fino a, se superiore a 150.000 euro. Ecco, la cosa che fa cascare le braccia, diciamola tutta, è che questi tagli valgono per i dirigenti della pubblica amministrazione, per i dipendenti, per tutti quali hanno un ruolo di vertice, ma non valgono per i ministri e i sottosegretari. Perché? Perché sono titolari di cariche politiche, ricoprono cariche politiche e non hanno un rapporto di lavoro dipendente, quindi non possono essere considerati all'interno di questi tagli, praticamente vengono considerati come dei lavoratori interinali, che visto l'aria che tira il governo, ci sta tutta la borsa. Meno 3,80% dicevamo, e quindi è durata poco il recupero che, insomma, ieri sembrava evidenziarsi in maniera più netta. Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Vabbè, l'incertezza è sul vertice, sul fatto che Francia e Germania non siano usciti con un documento condiviso nemmeno dopo l'incontro di ieri tra Sarkozy, la Merkel, presidente Mario Draghi, Jean-Claude Trichet e Barroso. Come mai però tanta negatività? Proprio l'incertezza sul vertice e in generale sulla capacità dell'Europa finalmente di trovare un accordo comune per affrontare la crisi del debito che ha pesato soprattutto sul finale della seduta. Come ricordavi tu, si sono diffuse inoltre voci di un possibile rinvio del vertice, notizia che ha immediatamente penalizzato i listini, nonostante poi sia arrivata la smentita di fonti dell'Unione Europea che hanno confermato per domenica il vertice, sottolineando tuttavia che è possibile che rimarranno aperti aspetti tecnici anche dopo appunto l'incontro del fine settimana. Quindi dopo l'ottimismo di ieri, oggi gli investitori hanno preferito, vista l'incertezza, incassare gli eventuali realizzi penalizzando soprattutto i titoli delle banche, i quali hanno risentito, come hanno spesso fatto di recente, di uno spread tra il rendimento dei decennali, dei titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi, che in questo momento è tornato su quota 400 punti base. Eh sì, a 400 punti base è un nuovo livello elevatissimo, io lo dico perché riceviamo i messaggi più vari qua, ma ce ne sono alcuni oggi che dicono: Barisoni, lei e i suoi radioascoltatori siete lo specchio di un'Italia che nega i problemi anche di fronte all'evidenza, siete degli ottimisti fallimentari. Ora, mettetevi d'accordo, perché o siamo pessimisti e abbiamo anche brevettato il gufo, oppure siamo ottimisti e allora dovremmo sempre mettere il gallo. Io non lo so, non mi sembra che questo programma pecchi di un eccesso di ottimismo. Ho detto solo, piano, prima di parlare di un crollo totale, veniamo da giorni di recupero, le banche anche ieri molto erano cresciute, è chiarissimo però che dall'Europa, dall'incontro europeo di ieri non è arrivato un elemento di certezza, anzi di maggiore incertezza. E se Goldman Sachs oggi dice, per voce del numero uno sull'asset management, tutto il futuro dell'Europa si gioca sull'Italia, ecco, come scrivono alcuni ascoltatori, finalmente abbiamo raggiunto la nostra visibilità e contiamo di più in Europa. Traffico e poi i titoli. Commentare la giornata di borsa. Allora, Paolo Paronetto, perché chiedono molti ascoltatori Intesa e Unicredit perdono più di altre banche? Devo dire anche il Monte dei Paschi oggi, meno 11,23% il Monte dei Paschi, tonfo, meno 12% Unicredit, tonfo, meno 9,81% Intesa San Paolo, tonfo, è tutto un tonfo qui. Comunque, perdono di più perché il mercato sa che hanno più obbligazioni italiane? O perché più sono cresciute in questi giorni? Beh, esattamente, sono i due principali motivi. Il primo è prettamente tecnico. Ieri Intesa San Paolo e Unicredit erano i titoli bancari che avevano guadagnato di più, rispettivamente Intesa il 7,3% e Unicredit il 5,2%. D'altra parte, in un momento in cui tornano elevate le tensioni sui titoli di Stato italiano, come dicevamo prima, lo spread col decennale tedesco è risalito a 400 punti base, naturalmente gli istituti più grandi sono quelli che hanno la maggior quantità di titoli di Stato italiani in portafoglio e quindi sono sicuramente quelli che ne risentono di più. Allora, esiste la possibilità che alcune banche falliscano? No, non esiste in questo momento per due motivi. A livello europeo, proprio i rischi sulla capitalizzazione di alcune banche, ricordo, hanno portato a varare un piano di aumenti di capitale tra 150 e 200 miliardi. Ancora non si capisce la tecnicalità di questo piano, ma questo è per salvare alcune banche che hanno problemi di capitale. Nel caso specifico dell'Italia, obiettivamente, poi posso essere sempre sconfessato, ma le nostre banche sono molto meno esposte in prodotti diciamo derivati tossici e anche verso paesi a rischio. Abbiamo visto con la Grecia tutta l'esposizione, e anche con l'Irlanda, era delle banche francesi e tedesche, nel caso dell'Irlanda anche le banche inglesi. Le nostre banche hanno poco di quella roba lì, da quello che abbiamo visto, e comunque la banca, essendo un soggetto sistemico, per definizione non può fallire. Andiamo avanti con chi meglio si è mosso. Eni oggi, tra l'altro non solo Eni ma anche gli altri energetici, però vorrei citare Eni più 0,60, Saipem più 0,60, Ansaldo STS più 0,70%. Eni è anche legato a una notizia che riguarda il cane a sei zampe. Sì, esattamente. Eni infatti oggi ha accelerato l'avviato soprattutto dopo la notizia di una scoperta di un giacimento gigante di gas naturale nell'offshore in Mozambico, e si tratta, ha annunciato la società, della più grande scoperta mai fatta in qualità di operatore, quindi naturalmente questo aumenta le riserve a disposizione di Eni, che il titolo in borsa ne ha immediatamente approfittato. Eni è salita, come dicevi tu, dello 0,64%, bene anche la controllata Saipem, più 0,66%. E per quanto riguarda Ansaldo non c'è nessuna notizia particolare, e il titolo rimane sotto i riflettori da un po' di tempo su ipotesi di possibili cessioni. Oggi è stato premiato dagli investitori anche su un rialzo di poco inferiore al punto percentuale. Questi tre sono gli unici tre titoli positivi sul FTSE MIB di Piazza Affari. Sì, c'è un titolo che perde anche oggi, è di Asorin, qui però ci sono notizie più specifiche. Di Asorin era già in netto calo fin da lunedì, quando la società ha lanciato un profit warning sui conti 2011, attendendosi, quindi ha abbassato tutte le precedenti stime sia per quanto riguarda il fatturato sia per quanto riguarda la redditività. È da allora che il titolo è in calo, la flessione complessiva ormai da lunedì sfiora attorno al 15%, oggi è stato del 3,88%. Ancora, un limite al Carlo Pirelli, meno 0,88%, e qui insomma ci sono anche delle indicazioni su Pirelli, no? Sì, esattamente, soprattutto il mercato sta iniziando a posizionarsi in vista dell'Investor Day del prossimo 9 novembre, molti operatori si attendono una revisione al rialzo dei target, soprattutto perché si aspettano un terzo trimestre positivo, quindi il titolo ha limitato i danni, è stato gran parte del tempo positivo, poi alla fine è scivolato a meno 0,88%. Ecco, visto che siamo in diretta dallo SMAU, diamo anche ST Microelectronics, che ha avuto una giornata, a mio avviso, degna di nota, meno 1,60% nel finale, ma era partita peggio anche sulla scia dei conti Nokia. Sì, a dire la verità è partito peggio, come dicevi tu, sulla scia dei conti ieri a Wall Street della joint venture ST Ericsson, che erano stati peggiori delle attese. Poi invece era risalita ed era passata in positivo grazie ai conti Nokia migliori delle attese. Sul finale è tornata in negativo, comunque ha perso più o meno la metà dell'indice, la flessione dell'1,64%. Fiat meno 1,90%, adesso vi leggo gli altri titoli oltre ai bancari. Perché il banco, anzi facciamoli tutti al di là di Intesa, Monte dei Paschi, Unicredit. Prismian meno 7,60, Banco Popolare meno 6,90 come UbiBanca, Mediolanum meno 6,60, Azimut meno 4,20 come Finmeccanica, Tenaris meno 4% come Diasorin, Fondiaria Assai meno 3,80 come Telecom e Parmalat e anche Mediaset. Il 3,70 lo perde Xor e la Popolare di Milano. Il 3,30% è il calo di Tods, ma anche di Fiat Industrial, quindi camion e trattori, e Generali e Buzzi Unicem. Mi fermo su chi perde il 3%, ossia A2A. I migliori e i peggiori in assoluto: Media Contact più 14,40, Nokia Corporation più 6,20, come ricordavamo se ne è avvantaggiata anche ST Microelectronics, Acotec Group più 4,40. Sul fronte opposto chi perde: FulSix meno 12,30, Unicredit meno 12%, abbiamo detto SEAT, pagine gialle sul risparmio, Prima Industria meno 8,20, Societe Generale meno 8,20% anch'essa. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore. Nel frattempo lo spread italiano è tornato a 402, anzi è salito ulteriormente a 402 punti, vicinissimo al record, ahimè. Ne parliamo dopo il GR. Dice 17:08 minuti, di nuovo in diretta con Focus Economia dallo SMAU, dalla penultima giornata dello SMAU e quindi la fiera più importante in Italia per il settore dell'information technology e quindi dell'informatica in generale, 48esima edizione, nel giorno in cui obiettivamente sono precipitati molti mercati. meno 3,78%, in questo momento ha chiuso Milano con un meno 3,78%, quindi questo è il dato definitivo sulla chiusura, ma soprattutto lo spread in questo momento è salito a 406 punti, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, andiamo a vedere un attimo anche i mercati valutari. No, l'euro è abbastanza tranquillo, adesso parleremo tra breve di quello che è successo a Francoforte ieri sera nel corso delle celebrazioni per il passaggio di consegne tra Jean-Claude Trichet e Mario Draghi, il mancato accordo tra Francia e Germania sul fondo di salvataggio, addirittura l'ipotesi oggi che venisse rinviato il Consiglio europeo di domenica tra i capi di Stato e di Governo a Bruxelles. Lo ha smentito però la stessa Commissione europea, ha smentito l'ipotesi di un rinvio. Sì, alcuni fanno notare che Tremonti ieri aveva parlato di catastrofe, e bene, sì, non so se sia questa la catastrofe, attenzione, la correzione c'è tutta. Certo, fa particolarmente specie vedere che dopo i rialzi di ieri Unicredit e Intesa sono tornati sull'otto volante, meno 12% Unicredit, meno 9,81% Intesa San Paolo, meno 11,23% il Monte dei Paschi, meno 6,92% il Banco Popolare, meno 6,90% anche UbiBanca. Ancora, ho detto, sì, abbiamo l'orologio sballato qui in studio allo SMAO, sono le 18.10, chiaramente, abbiate pazienza tra tutte queste cifre. Prima di arrivare però all'analisi di quello che sta capitando o che non sta capitando in Europa, vorrei tornare sui temi dello SMAO. Perché? Perché al di là dei dati di settore che abbiamo ricordato in apertura, buoni, più 11% comunque il giro d'affari nel mercato digitale italiano a 14 miliardi di euro, più 11% rispetto al 2010, con il solo commercio elettronico che vale 7 miliardi e mezzo, ebbene, è stato presentato proprio in occasione dello SMAU a Milano la nuova nuvola italiana, questa cosa che sta girando, il cloud computing di Telecom Italia. Praticamente, per capire come funziona una nuvola, è stato presentato anche il magazzino multimediale con i contenuti dentro e contenuti forniti anche dal Sole 24 Ore. Sentiamo al microfono la nostra Marta Cagnola, Simone Battiferri, direttore dei top clients di Telecom Italia. La tecnologia della virtualizzazione, che è alla base del cloud computing, c'è già da qualche anno, però la differenza è che nell'ultimo periodo, in particolare in Italia, noi l'abbiamo fatta diventare un'offerta per le imprese. Come si sa, una tecnologia e un'offerta non esattamente coincidono, quindi a un anno data bisogna dire che la reazione del mercato è stata molto interessante, perché in effetti, come a volte succede, l'utenza è più pronta di quanto ci si aspetti nel recepire nuove tecnologie se portano dei vantaggi. C'è un aspetto particolare che viene sempre toccato, quello che il fatto c'è molta paura della nuvola. Ma secondo me c'è una certa disinformazione. Diciamo, il concetto di paura della nuvola probabilmente è più paura dell'outsourcing, quindi paura di portare fuori dalla propria azienda alcuni dati. Devo dire che prima di tutto i dati che noi custodiamo sono in un ambito dove le tecnologie di sicurezza sono quelle più avanzate, e semplicemente perché noi facciamo degli investimenti ingenti su questo aspetto, cosa che in generale le aziende, in particolare medie e piccole, non sono assolutamente in grado di fare. Quindi c'è un po' l'errore di pensare che un server con un hard disk nella mia azienda sia più sicuro che nel cloud. La verità è che è esattamente il contrario, perché a volte anche con cose molto, molto semplici, ad esempio, quante aziende fanno il backup dei loro dati? Pochissime. Quindi poi quando funziona tutto, finché non si rompe il computer, si perde tutto, e questo è successo a tantissime aziende, specialmente quelle piccole. Così appunto il responsabile dei top clients di Telecom Italia. Però la nuvola in tema di sicurezza, anche se avete sentito, non è vero, dice Telecom Italia, che l'hard disk sia più sicuro della nuvola. La nuvola fa ancora paura, e sempre la nostra Marta Cagnola ne ha parlato con Carlo Alberto Cannevale Maffè dell'Università Bocconi di Milano. La nuvola assomiglia all'Italia, è il simbolo della flessibilità, della velocità, di un costo basso per fare cose interessanti senza avere bisogno di investimenti fuori dal controllo degli imprenditori. La nuvola restituisce agli imprenditori la libertà di usare la tecnologia che hanno perso tanti anni fa quando hanno dovuto fidarsi di una pletora di intermediari. Rimette insieme le filiere, consentendo lo scambio di dati tra fornitore, distributore, cliente finale. E le preoccupazioni sulla privacy, sulla sicurezza dei dati sono malattie di gioventù. Lei ha affrontato anche questo argomento, quello della proprietà intellettuale, diritto d'autore, vuole sfatare il mito. Questo paese vive di brand, di design, di media, di contenuti, e io penso che la nuvola, rendendo semplicemente meno efficiente lo scambio di dati piratati, perché ha molto più senso che stiano sulla nuvola e che una volta che vengono scaricati sono anche controllati, perché la nuvola è un posto sicuro, controllato, a cui si accede soltanto con le credenziali giuste, mentre il modello di dato distribuito è un modello assolutamente fuori controllo. Ecco, la nuvola è una splendida opportunità per ridare modelli di business accessibili anche a piccole aziende media, e non quindi far vincere solo i grandi Google e i grandi Facebook. La nuvola abbassa la soglia di economie di scala ottime per fare modelli di business. Sì, hanno ragione alcuni ascoltatori che scrivono, va bene, tutto bene, la nuvola, la condivisione, ha ragione anche il professor Carnevale Maffè nel dire che questo permette di mettere in rete la filiera e non avere sistemi non condivisi. Fanno notare, dicevo, molti ascoltatori però che va bene avere la nuvola, ma poi quando devi viaggiare con 3 megabyte, quando va bene, più che nuvola, poi è nuvoletta, è uno così. Non è niente, nel senso che se poi la connessione che tu hai è una connessione così bassa e continuano ad arrivare messaggi da diverse parti dell'Italia di connessioni insufficienti, per non dire ridicole, la nuvola resta lì, appunto, resta in alto, resta la nuvola. E dalla nuvola, diciamo, di Telecom, la nuvola Italia, allo spread, diciamo, c'è una canzone che faceva Messico e nuvole, qua potremmo dire spread e nuvole, perché? Perché siamo a 406 punti, non è il record negativo dell'Italia, quello fu toccato il 5 agosto a 417 punti, ossia la differenza tra quanto rende un BTP italiano a 10 anni e quanto rende l'equivalente tedesco a 10 anni, ebbene a noi tocca, il nostro rende il 4% in più come differenza rispetto a quello tedesco. Dicevo, non è il record storico, ma purtroppo siamo sopra i 400 punti, un elemento che non si vedeva da inizio agosto. Tutto l'effetto della manovra finanziaria approvata dopo agosto si è quindi perso oggi. Dopo il traffico cerchiamo di capire che cosa è successo in queste 24 ore, visto che ancora ieri stavamo commentando le dichiarazioni entusiastiche della stampa francese e tedesca dell'accordo tra la Merkel e Sarkozy, addirittura per portare il fondo europeo di salvataggio a 2.000 miliardi di euro. Tutto da rifare. 349-238-6666 per gli sms, ne parliamo dopo il traffico. Ce l'ho fatta questa volta, 18 e 19 minuti, ultima parte di Focus Economia, e allora tocca riparlare di questo mondo difficile, perché insomma ieri abbiamo respirato con i mercati, era una settimana e mezzo che tutto sommato le cose andavano bene, meno 3,80% oggi, tonfo delle banche, ma soprattutto, secondo me ancora più preoccupante, lo spread, ossia il rischio paese misurato su quanto costa a noi indebitarci, è schizzato prima a 400 punti, poi a 402, adesso siamo a 406 punti. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di allora tempo. Qui c'è più fuoco che acqua. Alessandro Merli, che ieri ha seguito il passaggio di consegne all'opera di Francoforte tra Jean-Claude Trichet e Mario Draghi. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, Alessandro, abbiamo fatto tempo ieri a dire, beh, vedi che la Germania e la Francia forse questa volta, per paura che ne patiscano le conseguenze le banche francesi, le banche tedesche, si sono messe d'accordo. Niente, abbiamo scherzato. Ma non avete letto attentamente il Sole 24 Ore di oggi invece di leggere la stampa francese? No, ieri. Sarkozy e la Merkel sono andati via senza proferire parola da questo incontro che hanno avuto con la Lagarde e tutti gli altri all'Alte Oper di Francoforte. Non solo, ma il fatto che Sarkozy, mentre la moglie partoriva, si sia preso la briga di prendere un aereo per arrivare da Parigi per incontrarsi per due ore con tutti questi personaggi a Francoforte, secondo me già dà il senso delle difficoltà di questa trattativa. O ci è abituato perché di figli ne ha già tanti, oppure, come dici tu, era più preoccupato per la trattativa con la Germania che per il figlio di Carlà. Ecco, appunto, sicuramente ieri dopo l'incontro sono emerse, e già si sapeva, delle differenze molto importanti su tutti e tre i temi del prossimo vertice europeo e poi del G20 di novembre, cioè il secondo salvataggio della Grecia, la ricapitalizzazione delle banche e il meccanismo per ampliare le risorse disponibili del fondo salva stati europeo IFSF. Quindi poi stamattina si è aggiunto il fatto che un giornale tedesco, Die Welt, ha detto che addirittura il vertice europeo potrebbe essere rinviato. Se poi si aggiunge, nel caso dell'Italia, la confusione sul cattivo spettacolo offerto e la scarsa credibilità ancora una volta offerta sulla designazione del governatore della Banca Italia che dovrà sostituire Mario Draghi, diciamo tutte queste cose, e poi ci si aggiunge anche il morto ad Atene, chiaramente è difficile trovare delle notizie molto positive che incoraggino lo spread restringersi. Sì, tu dicevi giustamente, potremmo aggiungere anche un disegno di legge sviluppo che è uscito a spizzichi e bocconi, con delle cose poi smentite, che sarà a costo zero perché il Presidente del Consiglio l'ha detto. Forse anche la frase di Berlusconi due giorni fa, non ci sono soldi, ci inventeremo qualcosa, con cui, se non ricordo male, avete aperto anche sulle 24 ore con l'assenza di soldi, vedi che lo leggo Alessandro, di ieri, forse anche quello non ha dato proprio l'idea di un paese che ha ben chiaro dove andare. Però oltre all'Italia mi sembra che qui il problema grosso, Alessandro, sia tutto franco tedesco, cioè noi non staremo dando una gran bella immagine, e questo lo sappiamo, siamo il problema e ce lo ricordano ogni giorno tutte le banche d'affari del mondo. Però diciamo, forse quello che ha fatto scattare le vendite oggi è più l'incapacità di Francia e Germania di mettersi d'accordo. Diciamo che quando ci sono dei problemi a livello europeo, chiaramente si scaricano sui soggetti più vulnerabili dell'area euro, più deboli. Sicuramente siamo uno di questi. È evidente che la frattura franco-tedesca è in questo momento il problema più grave. Ma questa frattura, esatto, questa frattura, però adesso scusami se insisto, io capisco che la stampa può enfatizzare in un senso o nell'altro, in senso positivo o in senso negativo, però sembrava veramente che ci fosse un asse pronto, quando i vari giornali richiamano un fondo da 2.000 miliardi, che cosa, da quello che tu hai capito, che cosa è scattato ieri in tarda serata per bloccare ogni tentativo di accordo? Secondo me semplicemente sono stati fatti dei grandi annunci, ma dei dettagli non ne sono stati annunciati, cioè tutte le volte che prima Sarkozy e la Merkel, quando si sono incontrati a Berlino, poi Schäuble e il suo omologo francese Barouin, quando sono stati ricevuti da Sarkozy all'Eliseo prima del G20 dell'altra settimana, hanno sempre detto c'è l'asse franco-tedesco, andiamo avanti assieme, eccetera, eccetera, però non è mai uscito neanche un mezzo dettaglio. Tant'è vero che nello stesso giorno in cui Schäuble parlava di 1.000 miliardi per questo fondo salva stati rafforzato, il Guardian usciva con una storia di 2.000 miliardi. Cioè si è andati avanti sull'onda soprattutto di molta, direi così, un po' immaginazione su quello che c'era poi effettivamente dentro questi documenti. Dettagli non ne sono mai stati annunciati. Prendiamo un caso, il secondo salvataggio della Grecia. chiamiamolo salvataggio. I tedeschi vogliono una penalizzazione molto forte dei creditori privati, 50% anche 60%. I francesi la rifiutano, perché naturalmente le loro banche sono molto esposte nel caso della Grecia. Prendiamo il caso della ricapitalizzazione delle banche europee per cercare di arginare le conseguenze non solo della Grecia, ma anche della svalutazione degli altri titoli che hanno in portafoglio, compreso quelli italiani e spagnoli. I tedeschi si stanno battendo perché in qualche modo queste perdite sul portafoglio titoli dei paesi della periferia vengano compensate con la rivalutazione invece dei titoli in portafoglio tedeschi e inglesi, cioè i Bund e i Gilt. Ovviamente chi ha in pancia più titoli tedeschi sono le banche tedesche. Guarda caso, questo consentirebbe per esempio a Deutsche Bank di evitare una forte ricapitalizzazione, soprattutto di evitare una ricapitalizzazione con denaro pubblico, che è quello che la Deutsche Bank ha sempre rifiutato. Quindi, come ieri immaginavamo, poi dietro tutto ci sono anche i timori sulle banche francesi e tedesche. Chiedo a Alessandro Platerotti, vice direttore del Sole 24 Ore, che ci ha raggiunto in collegamento. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. Abbiamo un paio di minuti scarsi. Qui sembra, dal racconto anche di Alessandro Merli, un po' come durante le guerre del Rinascimento, in cui lì era Francia e Spagna, qui Francia e Germania combattevano in Italia, cioè le loro tensioni si scaricano da noi, visto che lo spread è a 406. Alessandro. Indubbiamente l'Italia è un terreno molto, molto fertile per questo tipo di battaglie finanziarie, vista la nostra debolezza relativa, in questo senso come tenuta dei conti e come immagine internazionale. Ma detto questo, proprio per questo motivo vengo volentieri qua alla radio per annunciare che domani cercheremo di fare chiarezza, soprattutto nell'ottica del risparmiatore, su come interpretare questa fase. E non voglio più dire come difendersi, perché il tempo della difesa qua è finito, e come non farsi sopraffare, quindi stare un passo avanti al mercato. Noi cercheremo proprio di dare l'indicazione migliore ai nostri lettori su come difendersi, sugli spread, sulle banche, ovvero qui si parla tanto della qualità degli attivi, ma in realtà per il correntista è importante sapere come la tua banca ha prestato i soldi e a chi. Sì, e noi crediamo che anche per questo domani sarà un servizio molto utile. La borsa è la fine dell'era speculativa, sono questi i temi che ormai vuole sapere la gente. Io credo che se la Francia e la Germania litigano, se la Francia e la Germania litigano, la gente la interpreta come se noi fossimo sempre ai margini del mondo. In realtà stanno litigando perché non trovano un accordo su come costringerci a fare le riforme. Noi domani avremo tre praticamente giornali al prezzo di uno, perché andremo proprio su questo terreno ad affrontare i mercati, la crisi internazionale e il quotidiano che ci attanaglia. E fai bene a ricordare, Alessandro, che Francia e Germania litigano anche su di noi, oltre che sulla Grecia e sui paesi già noti, su come approntare un fondo di salvataggio, come obbligare l'Italia a fare le riforme e anche un po' come salvare le banche francesi e tedesche. Domani su Sole 24 Ore, quindi tre giornali al posto di uno. Per ora è tutto, grazie Alessandro Merli e grazie Alessandro Platerotti. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, siamo qui in diretta dallo SMAU e la puntata termina. Domani in diretta invece da Capri per il convegno annuale dei giovani imprenditori, senza politici interinali, come abbiamo scoperto, come ricordavamo, dai non tagli al loro stipendio. Ci sentiamo domani. Radio 24. La passione si sente.